Europa 24. E buona giornata anche da Anna Miglioratti. Si gioca a Lussemburgo il braccio di ferro tra Unione Europea e Turchia dopo le violenze nelle strade di Istanbul. Sono sempre convinta che il futuro di Ankara sia nell'Unione, ma questo richiede enormi progressi, non ha nascosto la rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Catherine Ashton arrivando al Consiglio degli Esteri. Non bisogna mai chiudere la porta, ha affermato anche il ministro degli esteri belga Didier Reinders. Piuttosto bisogna ricordare fermamente l'appello al dialogo e a procedere senza violenza. Più scettici però altri paesi, di certo la posta in palio è alta. Gli ultimi scontri a Istanbul hanno messo in dubbio l'idea di aprire un nuovo capitolo dei negoziati di accesso del paese all'Unione Europea. La Germania si è detta preoccupata dalle violenze in Turchia e vorrebbe usare proprio i negoziati con l'Europa per indurre il governo turco a maggiore moderazione. Altri paesi, invece, credono che il dialogo debba continuare e anzi forse rafforzarsi per influenzare le politiche di Ankara. Tra questi paesi anche l'Italia. Sullo sfondo ci sono sempre due modi contrastanti di guardare alla Turchia. C'è chi mette l'accento sulle sue radici medio orientali e musulmane e chi sul suo ruolo storico e geostrategico in Europa. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Intanto una decisione è già arrivata, l'Unione Europea sostiene i diritti dei gay e deve condannare attivamente leggi, politiche e pratiche discriminatorie, è uno dei passaggi delle linee guida per proteggere e promuovere i diritti umani approvati dai ministri degli esteri europei. E sempre a Lussemburgo sul tavolo anche l'ormai atteso bilancio europeo. Oggi la trattativa è sull'agricoltura, trattativa a tre ministri dei paesi dell'Unione, Commissione e Parlamento europeo. In gioco ci sono risorse importanti per l'Italia, il nodo principale è l'aiuto ai giovani agricoltori che la Germania però non vorrebbe. E a Lussemburgo anche il presidente della Commissione Agricoltura di Strasburgo, l'italiano Paolo De Castro, così al microfono di Anna Marino. Noi stiamo andando avanti a negoziare, abbiamo fatto passi avanti la scorsa settimana a Bruxelles, continuiamo a negoziare a Lussemburgo per cogliere la disponibilità della Presidenza e della Commissione, ma dobbiamo ricordare che nulla è deciso finché non ci sarà la Commissione Agricoltura il 26, mercoledì prossimo, dove si valuterà il sostegno politico di tutti i gruppi all'eventuale accordo, se ci sarà. In dettaglio l'ammontare dei fondi per l'Italia? Stiamo parlando di circa 6 miliardi di euro all'anno, per cui nei 7 anni di programmazione sono circa 41-42 miliardi di euro. Risorse importanti sia nei confronti degli aiuti diretti degli agricoltori, ma anche per il sostegno ai piani di sviluppo rurale per le regioni italiane. Quindi parliamo della più importante politica dell'Unione. Sono il 40% dell'intero bilancio dell'Unione Europea, per cui ci auguriamo non solo di difendere le risorse, ma soprattutto di avere regole meno burocratiche, più flessibili, che aiutino le imprese. Una PAC più verde, ma anche più equa, più semplice da applicare. Dicevamo delle resistenze tedesche, resistenze che piacciono sempre meno in Europa. L'82% degli italiani ritiene che l'influenza della Germania sia diventata troppo forte nell'Unione Europea. Opinione condivisa dall'88% degli spagnoli e dal 56% dei francesi, stando a un sondaggio per conto del Financial Times. Oltre tre quarti degli spagnoli e il 70% degli italiani considera nocivo il crescente ruolo dominante di Berlino. Non solo, il 56% degli italiani e il 73% degli spagnoli reputa sbagliato che la Germania imponga misure di austerità in un momento di debole crescita economica. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio ricordare l'appuntamento con il MED Film Festival, il festival del cinema euro-mediterraneo che si tiene a Roma fino al 30 giugno. Nelle tre sedi preposte, il Museo Maxi, la Casa del Cinema e il Cinema dei Piccoli, verranno proiettati film, documentari e cortometraggi provenienti da tutta Europa e dai paesi del Mediterraneo, in una edizione dedicata all'anno europeo dei cittadini e all'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, paese che è anche ospite d'onore al festival. Ad accompagnare le giornate, incontri letterari a Villa Borghese, laboratori per imparare a realizzare documentari e un forum dedicato al programma Europa Creativa. Per conoscere tutti gli appuntamenti, www.medfilmfestival.org. E come sempre con l'Europa, l'appuntamento alle 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.